Vendo tutto di Matteo Caccia. Tra poco più di due settimane siamo a Riva del Garda. I racconti e i desideri continuano ad arrivare. Storie di abiti, di automobili, di biciclette e di orologi. Desideri di viaggio, di ringiovanimento, di patenti e di brevetti. Voi continuate a scrivere, io continuo a vendere. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita. Succede a tutti e stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una maglia da pallavolo. Nel 1989 il Milan iniziò ad essere il Milan di Sacchi e a Barcellona non potevamo non esserci. Con una Mercedes non proprio di prima mano, mio padre, mio fratello, mia sorella ed io partimmo alla volta della capitale catalana. Avevamo travolto Real Madrid e giunti a Barcellona fummo accolti da spagnoli inneggianti che ci salutavano ovunque. Oggi per me la partita di calcetto è un rito, è una vestizione, lenti a contatto, parastinchi, cavigliere e paralluci. Prima di trovare le protezioni allucevalgo in gel morbido, quelli usa e getta, ne acquistai una in silicone, però capii subito che non era adatta al mio scopo. Mio figlio non mostra nessuna attitudine al gioco del calcio. Probabilmente costruirà su altre esperienze i propri ricordi. Queste sono parole di Luca Capetta, che si definisce marito e papà. Vive ad Alba, in Piemonte, è laureato in filosofia e dice: ho intrapreso la carriera prospettatami dai miei studi. Allevatore avicolo e produttore di alimenti zootecnici. Io ringrazio Luca Capetta, che partecipa al concorso Vendo Anch'io. Ha inviato il suo racconto, la sua biografia e il suo desiderio a vendotutto@radio24.it. Il suo desiderio, tra l'altro, visto che il racconto parla di calcio e non solo, in caso di vittoria desidererei un vero pallone da calcio del costo di circa 100-150 euro. Ammazza, ma è... con cosa è fatto? Con cuoio o con platino? Per poter disputare un'ultima partita a 11 su un campo in erba. Vendo tutto, @radio24.it. Avete tempo ancora, più o meno, oggi è il 2 di giugno, quindi avete meno ancora una decina di giorni per partecipare al concorso, che scade venerdì 11 giugno alle 16.30, cioè al momento della chiusura della puntata di venerdì prossimo. Vi ricordo che dovete mandare un racconto di una pagina su un oggetto di cui volete liberare, una piccola biografia e un desiderio da realizzare. I 5 migliori racconti vengono presi, portati a Riva del Garda e nella serata di sabato 19 giugno alle 22 nella piazza centrale di Riva del Garda, che è Piazza delle Erbe, giusto? Giusto, Piazza delle Erbe, perfetto. In Piazza delle Erbe ci sarà la serata finale del concorso Vendo Anch'io, in cui verrà scelto il vincitore, grazie ad una giuria che sarà lì presente, e il vincitore si porterà a casa i soldi dell'asta dei 5 oggetti che saranno stati venduti lì al pubblico. Per partecipare vi ricordo vendotutto@radio24.it, però trovate il regolamento sul sito radio24.it, sulla pagina Vendo Tutto. Grazie ancora a Luca che ha partecipato, grazie a tutti gli altri di cui vi leggerò dei pezzi nei prossimi giorni, da qui a venerdì 11 di giugno. Veniamo invece al racconto di oggi. Il racconto di oggi ha a che fare con questa maglietta da pallavolo. È una semplice maglietta da pallavolo femminile, in realtà poi si la può usare anche un maschio. Ha una taglia media, è blu ed ha delle strisce bianche. Questa maglietta da pallavolo, per me, come spesso è capitato in questi giorni, in questi mesi in cui ho venduto delle cose, non è solo una maglietta di pallavolo. Cioè, sì, è solo una maglietta di pallavolo, però chiaramente non lo è. Ha a che fare con quello spartiacque che divide l'essere bambini dall'essere adulti. Guarda, facciamo così, Paolino, trovami una roba un po' romantica da mettere, una cosa che faccia capire, ecco, quei momenti importanti quando siete dei bambini, per lo più, e ci avete magari 10 anni, magari 15, magari 20, spero di no, spero che accada prima, e vi capita di vedere per la prima volta una persona dell'altro sesso, se siete un uomo o una donna, se siete una donna, un uomo, nudo. È un momento particolare, nel senso che non è così facile, uno se le immagina, uno magari ha visto un pochettino la mamma che fa la doccia, il papà che faceva il bagno, però non è proprio la stessa cosa. Quando vedi una persona che per lo più non conosci e vedi una donna, se sei un bambino di 10 anni e vedi una donna nuda, il mondo ti si apre, no? Cioè, è proprio un'esperienza, è un po' come la prima volta che vai con la bicicletta senza le rotelle, no? Che fino a che non provi a farlo non ti rendi conto che lo sai fare. Poi invece ti danno una spintarella e tu vai. Oppure un po' come quando fai il primo bagno senza il salvagente, che c'hai sempre avuto o i braccioli, no? O la ciambellina, e c'è il papà che ti sorregge, la mamma che ti tiene su. Quel giorno lì, il giorno in cui ti butti in mare e ti accorgi che stai a galla, comunque è un giorno dal quale non torni più indietro. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Per gli uomini direi che è più facile ricordarsi qual è stato quel giorno in cui avete visto una donna nuda. La prima volta che l'avete vista. Prima ne parlavamo, Tiziano l'ha vista in un bosco facendo i Boy Scout. Poi si dicono che i Boy Scout non sono una scuola, no? Però invece Nicole prima, quando le raccontavo che tipo che telefonate abbiamo oggi, mi diceva che anche lei si ricordava di aver visto un uomo nudo durante un bagno notturno insieme degli amici. Era una ragazza, faceva, sai, i bagni che si fanno a mezzanotte, e lì fu la prima volta che vide un uomo nudo. Quindi sicuramente agli uomini viene più naturale. Anch'io me lo ricordo quando l'ho vista una donna nuda, e ve lo racconto a breve, per la prima volta intendo. Però mi piacerebbe che ci fossero anche delle donne che ci raccontano, perché poi le donne si raccontano, perlomeno a noi lo raccontano di meno, tra di loro immagino che se lo raccontino un pochettino di più. Però sono convinto che sia un momento di passaggio e mi piacerebbe che me lo raccontaste. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Veniamo al mio di momento importante, il mio spartiacque. Ha a che fare con questa maglietta. Se volete vederla, andate sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto, oppure state lì. Maglia da pallavolo femminile, marca Champion, taglia media, materiale cotone, colore blu a strisce bianche. Perfetta per chi gioca a pallavolo o per chi ama feticci sportivi. Valore commerciale 18 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Quello che si dice a proposito dell'adolescenza, di quanto sia scomoda e ingestibile, ecco, per me è stato tutto vero. Da ragazzino avrei voluto, prima cosa, essere nero, per avere i muscoli e giocare a basket. Poi volevo essere basso, per essere più veloce. E alla fine volevo anche essere biondo, così, per sembrare tedesco. Sembra evidente che ci fosse una scarsa forma di accettazione della mia fisicità, visto che ero bianco, alto e castano. E poi non sapevo mai come sistemare le mani, mi sembravano troppe grosse, e i capelli che non avevano una forma. Non sapevo nemmeno che cosa mi piacesse davvero. Quello che facevo lo facevo perché si doveva, studiare, giocare al pallone, andare all'oratorio e tacchinare le ragazze. Ecco, no, questa era forse l'unica cosa in cui avevo le idee piuttosto chiare. A me piacevano le pallavoliste. La storia è andata così. Allora, la palestra delle scuole medie del mio paese era utilizzata dalla squadra di pallavolo femminile. Io, Michele Del Frate, Paolo Zanelli e Salvatore Ariberti, che tra l'altro saluto, qui saluta Stante, frequentavamo assiduamente gli allenamenti della squadra. Le ragazze erano più grandi di noi, avevano più o meno 20 anni, anche se noi sembravano quasi anziane. E non erano tutte alte, belle e muscolose, però a noi piaceva immaginarle così. Tifavamo per loro durante le partite e poi le aspettavamo fuori dagli allenamenti. Finché un giorno Michele scoprì che la rete che dava sul cortile della scuola era tagliata. Da lì si poteva arrivare fino alla tettoia per le biciclette, salirci sopra e arrampicarsi sul tetto della scuola. Dal lato del tetto che dava verso la palestra si aveva un'ottima visuale sulle finestre degli spogliatoi. Quando ce lo raccontò, io pensai che era una cosa che era meglio non fare. Non per motivi eciti o cose del genere, no, è solo perché se ci avessero beccato sarebbero stati molto amari. Lo pensai io e sicuramente lo pensarono anche gli altri, ma come succede in quei momenti, a quell'età, nessuno ebbe il coraggio di dirlo per non fare la figura dello sfigato. Quindi ci guardammo e in fila indiana andammo verso il taglio della rete. Quando arrivammo sul tetto, l'allenamento non era ancora finito e si sentevano gli acuti delle suole sul parquet e le urla delle ragazze che schiacciavano. Aspettammo circa un'ora e poi le luci degli spogliatoi si accesero. Paolo Zanelli fece un verso che sembrò quello di un cane. Io iniziai a sudare, perché non sapevo come ci si comportava in situazioni come quelle. Quindi non feci nulla e rimasi a guardare. Le ragazze iniziarono a spogliarsi, e anche se le finestre erano piccole e si vedeva poco, quel poco ci bastava. Era la prima volta che vedevo dal vivo una donna nuda. E stavo pensando proprio a quello, quando sentii un urlo arrivare dallo spogliatoio e Michele Del Frate che si metteva a correre gridando «Via, via, ci hanno visto!» Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Questo episodio della mia vita, con tutto quello che seguì, ha segnato la mia adolescenza e il mio immaginario erotico. per anni non ho potuto vedere una partita di pallavolo femminile, nemmeno la televisione, per paura di trovarmi qualcuno che mi prendeva per l'orecchio e mi dava del guardone. Dicono che il desiderio erotico sia inconscio, sia insondabile, che i motivi per cui ci piacciono alcune cose piuttosto che altre, o per cui siamo attratti da un tipo particolare di donna o di uomo, siano sconosciuti. Per quanto mi riguarda, però, i gusti sono stati sempre molto chiari. Qualche anno fa incontrai Maddalena. All'epoca avevo un cane e quindi frequentavo il parco come tutti i padroni di cani. Un giorno di risveglio primaverile, il mio cane cercò di ingravidare il suo e dopo qualche frase imbarazzata e qualche sorriso di circostanza, io e lei iniziamo a chiacchierare. Era piccola, aveva i capelli biondi e un viso pieno di armonia. Mentre i nostri due cani si annusavano il sedere, io e Maddalena passeggiavamo una a fianco all'altra. Aveva 23 anni, studiava storia, però giocava a pallavolo in una squadra di Roma. Io ebbi un sussulto, le raccontai di avere un passato da guardone di pallavoliste. Le raccontai tutta la storia. Lei scoppiò a ridere. Aveva una bella risata. Suonava come un tintinnio. Improvvisamente quel giorno mi sentii bene. Parlammo per tutto il pomeriggio. Parlammo di cani, di Milano, della pallavolo. Le dissi che ero convinto che le pallavoliste fossero tutte alte. E lei con un sorriso mi raccontò che da qualche anno era stato creato un ruolo nuovo nella pallavolo. Il libero. Un ruolo in cui non serviva essere alte, ma essere veloci e brave nella difesa. Io feci finta di capire quello di cui mi stava parlando e alla fine mi invitò ad una partita. Io la ringraziai ovviamente e le dissi che ci avrei pensato. Passò qualche giorno e me ne dimenticai. Una mattina poi, mentre stavo leggendo la Gazzetta al bar, la riconobbi in una foto. Controllai il calendario della sua squadra e quello stesso sabato presi un treno per Roma. La salutai a bordo campo mentre faceva riscaldamento. Mi fece lo stesso sorriso che aveva fatto al parco e io fui felice. La partita fu piacevole, io non ebbi incubi legati al mio trauma con la pallavolo. In campo le sue compagne indossavano tutte una maglia bianca con strisce blu, due, mentre lei ce l'aveva blu con due strisce bianche. Vinsero la partita che era l'ultima di campionato e io mi unii ai festeggiamenti. Quando dopo cena andammo a casa sua, lei mi spiegò che la sua maglia era diversa dalle altre perché il libero è un po' come un jolly, che entra ed esce quando vuole, e quindi deve essere riconoscibile. La mattina dopo, quando me ne andai da casa sua, avevo questa maglia nella borsa e non la sentii più. L'ho usata parecchie volte, per giocare a calcio soprattutto, anche se mi stava un po' stretta. Eppure, come tutto, nonostante tutto, la vendo. Il suo valore è di 18 euro. La base d'asta sono 99 centesimi. Se avete voglia di raccontarmi e di confessarmi la prima volta che avete visto un uomo o una donna nuda, 80024 0024. Sono le 16:23 minuti, questa è Radio 24, 349-238-6666, 80024-0024. Mi scrive un anonimo: la prima volta che ho visto una donna nuda ero in casa e vidi mio fratello con la sua fidanzata. Non specifica esattamente cosa stessero facendo, però era quantomeno la prima volta. 80024-0024, evidentemente c'è o poca memoria, oppure c'è poco coraggio nel dire la prima volta che si è vista la donna nuda. Però c'è qualcuno che invece ha il coraggio di alzare la cornetta o di semplicemente di prendere il cellulare e di chiamare. È il caso di Marco da Roma, pronto Marco? Ciao, ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene, tutto ok. Ti stavo ascoltando e devo dire è un programma fantastico perché lo stai facendo veramente molto bene. Sono un po' emozionato perché ascolto sempre questa radio, ma è la prima volta che telefono. Marco, senti, che cosa fai tu nella vita? Io faccio il falegname. E quindi l'ascolti in laboratorio? Sì, sì, sì, esatto. E sei a Roma, sei di Roma o in zone limitrofe? No, sono di Roma e lavoro a Roma. Ma scusami, oggi non fai festa? No, oggi lavoro. Ah, ok, quindi stai lavorando in questo momento? Sì, esatto. Mi fai sentire un rumore di un attrezzo sul legno, una sega? Guarda, se entro dentro va via la comunicazione, okay. Fuori dal laboratorio. Ok, allora niente. Senti Marco, andiamo direttamente sul tema, perché anche tu, come tutti, hai visto per una volta, la prima volta, una donna nuda. Esatto, sì. E chi era? Mi chiedevo se valeva anche per la propria cugina. Ha voglia, come vale? Guarda, prima facendo un veloce sondaggio in redazione... questo è un rumore che... Grazie, ringrazio Paolino che ha deciso di mettere un rumore della falegnameria visto che tu non potevi entrare in laboratorio. Prima dicevo, un sondaggio veloce in redazione, pare che la cugina sia proprio al 70% della prima volta che hai visto una donna nuda. Come si chiama tua cugina? Oddio, figlio. Ok, non si può. Si chiama Francesca. E quando è successo esattamente? È successo praticamente più di 20 anni fa. Circa 20 anni fa. No, capito, quando... quello lo immaginavo che era tanto tempo fa. Però che so io, al mare, in montagna, in vacanza. Eravamo al mare insieme e mio zio aveva affittato un bungalow. Io dormivo con loro. E niente, solo che c'è stato un periodo, cioè un momento in cui stavo facendo la doccia, lei si stava facendo la doccia in bagno, non c'era nessuno, e io lì l'ho guardata dal buco della porta. Ah, ma quindi non l'hai vista, l'hai proprio spiata? L'ho proprio spiata, sì, proprio perché avevamo una piccola comitiva lì di amici, e non so... Non so perché, guarda. Marco, è perché siamo maschi e loro sono femmine, credo che quella sia la spiegazione. Scusami, quanti anni avevi esattamente? Esattamente, non mi ricordo bene se erano 10 o 11 anni, più o meno, insomma. Ok. Ma ti dirò, nel momento in cui l'ho fatto è stata una sensazione, devo dire... tra il bello e allo stesso tempo una mazzata per certi versi, perché come una mazzata? Perché nel momento in cui poi è capitato che l'ho fatto è finito, perché io ovviamente ho visto lei che si faceva la doccia con la schiuma che scendeva, mi sono sentito male per diverso tempo, nel senso da lì in poi la vita cambia, veramente... Marco, la vita cambia, lo immagino. Senti, ti lascio tornare al lavoro, a cosa stai lavorando esattamente adesso? A una porta, un tavolo? Adesso stavo facendo una cabina armadio. Ok, grazie mille Marco e buona giornata, saluta la cugina. Ciao. Senti, mi scrivono, immagino che vedere Colpo Grosso non valga. No, non vale, chiaramente vale solo dal vivo. Andiamo a Bologna da Gianluca, pronto Gianluca? Ciao, buongiorno. Senti, buongiorno. Andiamo subito al punto, Gianluca. Dimmi quanti anni avevi, dove eri e cosa è successo? Ah, dunque, ero all'isola di Pag, in Jugoslavia. Sì. Avevo tipo 5 anni, 6 anni ed ero in giro, come al mio solito, da solo nel campeggio. Okay. A un certo punto entro in quest'altro campeggio che era diviso dal nostro. Sì. Entro, vado per andare al mare, eccetera, sempre da sola, mi vedo questo tizio, questa tizia completamente nudi che stavano camminando, venendo incontro verso di me. Praticamente era un campeggio di nudisti. Questo. Si parla benissimo, e viva i nudisti! Grazie mille, Gianluca, alla prossima, ciao! Grazie a Guido Scotti, a Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Corleoni. La maglia è sul sito, come al solito, sul profilo di Facebook. Domani vendo un portafoto. Voi invece, se avete una passione forte, anche dopo aver visto per la prima volta una donna nuda, godetela, che alla fine la passione si sente. Love, love, love, wherever you go.